L'altro pianeta di Laura Bettini. Ben ritrovati appunto da Laura Bettini per una nuova puntata dell'altro pianeta che originariamente avevamo deciso di intitolare Terre Rare, sulla base di un allarme lanciato da Remedia, che è uno dei sistemi collettivi italiani per la gestione dei RAE, cioè rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sulle limitazioni che la Cina impone sull'esportazione di materie prime rare. Ma quando Danilo Bonato, che è il direttore generale del consorzio Remedia, ha deciso di essere in studio con noi, abbiamo deciso di allargare un po' il campo e diamo il benvenuto a Danilo Bonato. Grazie Laura, buon pomeriggio. Danilo è anche presidente del centro di coordinamento dei RAE, che la prossima settimana presenterà il report 2011 sul sistema italiano di gestione e raccolta appunto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Quindi in questo rapporto quali sono le novità? Dacci qualche così anticipazione su quello che presenterete. Sì, vi posso dire che presenteremo i risultati di una attività svolta nel 2011 positivi, perché abbiamo raccolto e riciclato soprattutto, poi spiegheremo perché enfatizziamo l'aspetto del riciclo più che della raccolta, 260.000 tonnellate di rifiuti elettronici. Immaginate in peso di vedere 40 torri Eiffel circa, quindi è un volume importante di rifiuti elettronici tra frigoriferi, televisori, computer, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici che gli italiani hanno riportato nelle isole ecologiche e che i sistemi collettivi hanno raccolto e portato a impianti dove appunto sono stati riciclati questi rifiuti. Riciclo e raccolta, perché hai voluto differenziare? Perché la raccolta è quello su cui si insiste di più con la gente, la raccolta differenziata sicuramente è importante, ma è solo un passo di un processo che ha l'obiettivo di recuperare i materiali, e quindi è importante spiegare che non è tanto la raccolta differenziata quello che conta, ma è poi quello che succede dopo, e cioè la possibilità di assicurare che tutto quello che viene gettato via, quindi i nostri rifiuti, tornino ad essere materiali da poter sfruttare per fare nuovi prodotti, per far girare l'economia, perché siamo di fronte a un vero e proprio allarme risorse. Allarme risorse, e poi dopo appunto è l'altra parte, diciamo, della trasmissione. Se invece guardiamo a questo rapporto, leggevo che è stato riconfermato e superato l'obiettivo che era stato imposto, che è imposto dalla Unione Europea, 4 kg per abitante, così come è stata ampliata la rete dei centri di raccolta, ma che c'è purtroppo ancora un grosso divario nel nostro paese, che è quello solito nord-sud, anche se ci saranno, immagino, anche in questo campo delle isole felici del sud. Che cosa c'è ancora da fare quindi? Sì, c'è da fare tanto, soprattutto, come hai detto giustamente, al sud, perché mancano i centri di raccolta. La gente al sud vorrebbe fare la raccolta differenziata, ma se poi devo percorrere 20 chilometri per andare a trovare un'isola ecologica, non lo faccio, e quindi poi questi rifiuti vengono smaltiti in modo non corretto. Quindi un punto fondamentale è aumentare la capillarità, cioè la presenza di isole ecologiche che i comuni hanno il compito di realizzare. Al nord ce ne sono tantissime, tanto è vero che al nord si raccolgono circa 6 kg per abitante all'anno. La media europea è intorno ai 7 kg, quindi siamo ancora indietro. C'è da migliorare anche lì. Ma c'è da migliorare anche al nord. Al sud siamo sotto i 2 kg, questo per dare un'idea della differenza. A livello, come hai spiegato, a livello Italia siamo sopra i 4 kg, che è il limite minimo che occorre raggiungere per essere in regola con gli obiettivi europei. Questo risultato l'abbiamo ottenuto nel 2010, l'abbiamo migliorato lo scorso anno, e quindi il percorso è quello giusto. Stiamo migliorando, stiamo cercando di crescere, ma appunto mancano isole ecologiche, e poi anche il ruolo della distribuzione, perché è bene spiegarlo, cioè l'uno contro uno. Che cos'è? È la possibilità di riconsegnare al negozio un vecchio apparecchio elettronico, il frullatore, l'asciugacapelli, il ferro da stiro, nel momento in cui sto acquistando un nuovo prodotto equivalente. Tutto questo può avvenire gratuitamente, il negoziante ha l'obbligo di ritirare il vecchio apparecchio elettronico, che noi non usiamo più, però lo sanno ancora in pochi. E quindi è un altro tema su cui fare cultura, spiegare e cercare appunto di migliorare. Quindi c'è da fare cultura, appunto, le persone devono imparare non solo l'uno contro uno, ma anche devono imparare a non buttare via nel cassonetto generico questi apparecchi usati, e poi c'è da aumentare il numero dei centri di raccolta. Questo chi lo deve fare? Chi è che decide dove si fanno, che tipo di centri devono essere? Questo dovrebbe essere un obbligo dei comuni, degli enti locali, che però hanno, sappiamo bene la situazione, hanno poche risorse finanziarie e quindi c'è un problema oggettivo. Un centro di raccolta costa 200, 300, 500 mila euro, dipende dalle dimensioni, e quindi è un investimento importante, perché non è solo una recinzione intorno a un prato, bisogna costruire delle strutture, delle pavimentazioni, la captazione delle acque. Sono strutture che hanno dei costi e i comuni in questo momento sono in difficoltà. Quindi c'è un problema anche di tipo finanziario. Per cui la soluzione potrebbe essere migliorare alcuni servizi presso la distribuzione, fare dei servizi porta a porta, che già in alcune città sono disponibili. La possibilità per il cittadino di chiamare un servizio pubblico e consegnare il vecchio frigorifero, la lavatrice, il televisore, invece di andarsi a cercare l'isola ecologica. Quindi su questo fronte, cioè facilitare al cittadino, al consumatore, la possibilità di restituire un vecchio elettrodomestico, un vecchio apparecchio elettronico, ecco, questo è l'elemento su cui nei prossimi anni dovremo decisamente investire e trovare delle soluzioni più efficaci. I consorzi cosa fanno? Spieghiamolo anche agli ascoltatori in tutto questo ciclo. I consorzi hanno un ruolo importante in quanto hanno il compito di organizzare e soprattutto di finanziare le attività che vanno dalle isole ecologiche, quindi il ritiro di questi rifiuti presso la piazzola, il centro di raccolta, e successivamente il trasporto a degli impianti che fanno, sono delle fabbriche al contrario, invece di costruire il prodotto lo smontano, e alla fine di questo lavoro troviamo in piccoli pezzettini le singole materie prime, quindi la plastica, il vetro, l'alluminio, l'acciaio. Ecco, questo lavoro è importante perché il consorzio coordina queste attività ed è un consorzio che non ha finalità di lucro, si occupa di un servizio e lo fa per conto dell'industria elettronica. L'industria elettronica che è obbligata a organizzare questi servizi per una direttiva europea, che è del 2002 e che adesso è in fase di revisione, che sostanzialmente dice: caro produttore, tu vendi degli apparecchi elettronici, benissimo, noi ne abbiamo bisogno, li compriamo, li utilizziamo, però per favore, quando questi prodotti vengono buttati via, occupati anche del fine vita, cioè della fase di raccolta e riciclo. Questo è un principio europeo che si chiama responsabilità del produttore. Quindi i produttori, non solo nel settore dell'elettronica, ma pensiamo anche al settore dell'auto, dei pneumatici, ed è una tendenza che si sta estendendo un po' a tutti i prodotti, sono chiamati non solo a vendere il prodotto, ma anche a farsi carico di quello che è la gestione del fine vita. E in questo senso i consorzi realizzano in termini operativi concreti questo tipo di obbligazione, questo tipo di responsabilità. E immagino che, come tutte le direttive, stabilisca degli standard minimi, ma poi si può fare molto di più, nel senso da apparecchiature di questo tipo vanno recuperate almeno queste cose, no? Ci sarà poi un elenco. Si può fare tanto per poi dopo invece ottenere ancora di più, stando al di sopra del livello minimo. Sì, da un lato, come dicevamo prima, la raccolta, e quindi fare di più nel raccogliere più materiale. Oggi in Europa si raccoglie il 30% di tutti i rifiuti elettronici che buttiamo via, quindi ancora molto poco. In Italia siamo intorno al 25%. Quindi immaginiamo cosa vorrebbe dire poter raccogliere non il 25 ma il 75. Avremo meno problemi ambientali, perché purtroppo quello che non si raccoglie in genere finisce certo per strada, nelle discariche o anche negli inceneritori, ma comunque non è il posto giusto. Non è quello il posto giusto. Quindi quello che non raccogliamo noi, c'è il rischio che non vada nel posto giusto. Ma l'altro aspetto è quanto si può recuperare da questi rifiuti elettronici. Su una tonnellata di rifiuti elettronici si può recuperare fino al 93%, cioè 930 kg di materiale. Quindi un aspetto interessante è che in una lavatrice, in un televisore, in un computer, in un telefono cellulare abbiamo tante materie che hanno un valore economico anche importante, o che sono risorse critiche da un punto di vista della disponibilità, che sarebbe un peccato non riuscire a riciclare, visto che da questi prodotti praticamente quasi tutto, il 93%, può essere di fatto trasformato in una materia prima seconda, cioè qualcosa che può essere utilizzato per fabbricare un nuovo prodotto. Risorse critiche, hai detto, è un discorso che ci avvicina alle terre rare. Cosa sono le risorse critiche? Quali sono? Sono parecchie e sono tante. L'Europa, per dirti, ne ha identificate 14 in questo momento. Ma cos'è una risorsa critica? Deve avere tre caratteristiche. Deve essere essenziale per un certo settore, una certa industria. Immaginiamo il settore elettronico di cui parlavamo. Senza il rame, noi che conosciamo, no, come è fatta una scheda elettronica, dentro c'è tanto rame. Se mancasse il rame, l'industria elettronica non potrebbe fare le schede che servono poi per far funzionare il computer o il telefono cellulare. Quindi questo è un aspetto. L'altro è quello di avere dei prezzi molto volatili. Chi segue le quotazioni di borsa dei metalli sa che in pochi giorni ci possono essere oscillazioni del 20-30%, e quindi è un rischio anche economico per un'impresa che deve acquistare questi metalli, questi minerali sul mercato. E poi c'è un rischio geopolitico, che è quello che in particolare in questo momento caratterizza proprio il tema delle terre rare, che è un po' sulla bocca di tutti perché è un termine un po' esotico, piace parlarne, e sicuramente è in questo momento un elemento... Che poi non sono proprio terre, propriamente, queste delle rare. Non sono né terre né rare, per la verità, nel senso che da un lato sono... Andiamo bene, sbagliato il titolo della puntata, va bene. No, sono terre rare perché queste così vengono definite dall'inglese rare earth, quindi la traduzione è perfetta. Bisogna dire però che sono dei metalli presenti in concentrazioni molto molto basse nella crosta terrestre, che questi metalli sono, beati loro, per il 49% sul territorio cinese, quindi la Cina ha una sorta di monopolio. E l'altro aspetto è che però la produzione mondiale di queste terre rare in questo momento per il 97%, quindi rendiamoci conto della dimensione, certo, è in Cina. Questo non sarebbe un problema se non fosse che le terre rare sono oggi essenziali per fabbricare una miriade di prodotti. Quindi noi ne abbiamo bisogno per fare i prodotti elettronici, i sistemi medicali, i pannelli fotovoltaici, le turbine eoliche. E se venissero a mancare le terre rare, e purtroppo questa emergenza inizia a profilarsi all'orizzonte, il tema è: ma noi come andremo a fabbricare i nostri prodotti? Quindi il tema delle risorse è guidato da due fattori. Da un lato l'aumento della popolazione. Tu stessa hai spesso spiegato che siamo 7 miliardi, andiamo verso i 9 miliardi. Queste persone hanno diritto, direi, anche diciamo, cercano nei paesi sottosviluppati di avere una qualità della vita migliore, e quindi andremo verso consumi sempre più spinti, e quindi dovremo avere sempre più beni da produrre, sempre più manufatti, sempre più infrastrutture. Dall'altro le miniere riducono la produttività, perché nel 1900 andavamo dove era facile trovare le cose. Adesso la produttività è diminuita di un fattore 10. Per dire, 100 anni fa un chilo di rame lo trovavo scavando una tonnellata di roccia. Adesso devo scavarne 10 di tonnellate, perché devo andare sempre più in profondità, certo, in luoghi più impervi, più difficili. Quindi queste due tendenze, calo della produttività delle miniere e aumento demografico, pongono una pressione fortissima sulla possibilità di disporre dei materiali che servono per fabbricare. E danno anche un potere fortissimo nelle mani di chi li detiene. Assolutamente così. Non a caso c'è un gran movimento, e io vi leggo l'incipit di questo che è stato l'appello che tu hai mandato attraverso il consorzio Re Media: l'azione legale che Stati Uniti, Giappone, Europa hanno intrapreso contro la Cina sui limiti imposti da Pechino alle esportazioni di materie prime e terre rare rivela ancora una volta l'importanza dell'accessibilità alle risorse, spesso sottovalutata. E nel frattempo però potremmo cominciare a pensare a come affrontare la situazione con quello che abbiamo in casa già, no? Sì, questo è il punto. Fammi solo dire, Laura, che non sarei così cattivo con la Cina, nel senso che la Cina ci dà meno terre rare, ma lo fa perché ha, nel frattempo, negli ultimi 5-6 anni, ha investito molto nelle sue industrie, certo, manifatturiere. Quindi queste e quindi terre anche rare una scelta economica per sé. Se le tiene e le usa per fare i prodotti. E le fa mancare all'Europa, che per molti anni ha puntato sulla Cina, evitando di cercarsi le terre rare in casa. Quindi c'è tornato comodo andare... Perché potrebbero esserci? Ce l'abbiamo anche noi, in Scandinavia soprattutto, ma la scelta è stata quella di non scavare miniere, anche perché le miniere effettivamente hanno un impatto ambientale non secondario. E quindi abbiamo preferito che fossero i cinesi a scavare, a avere il problema delle miniere, comprando le terre rare da loro. Adesso, ma questo è un po' il tema della Cina, che non è poi così cattiva, ma è anche capace semplicemente di sfruttare le proprie risorse, e vale anche in tanti altri campi, no? Se un giorno cominciasse una sistematica raccolta della carta in Cina, loro non la comprerebbero più, per esempio, dall'Italia, utilizzerebbero la loro per fare quello che desiderano fare senza comprare niente dall'estero. Quindi situazione, cambiati i termini, ma la situazione, certo, è molto simile. Il quadro geopolitico è questo. Quindi cosa dobbiamo fare? Ma immaginiamo per un momento di non avere più miniere a disposizione. Cosa succederebbe se da domani le miniere non fossero più disponibili, o chiudessero, non arrivassero più metalli o minerali, che sono quelli che alimentano le centinaia di migliaia di aziende manifatturiere che producono i beni durevoli, le infrastrutture? Ci fermeremmo? Questo è un rischio magari non così immediato e non così generalizzabile, però pensiamo, a chi ascolta dovrebbe pensare alle prossime generazioni, fra 2 o 3 generazioni, se non prendiamo subito dei provvedimenti urgenti, potremmo veramente avere un grosso problema di approvvigionamento di risorse. Questo potrebbe mettere in crisi il nostro modello economico, il nostro modello sociale. Allora, se oggi non avessimo più miniere, quale sarebbe la soluzione? Al di là di aprire delle miniere, ma ci vogliono 10 anni, quindi è un po' tardi, e soprattutto ci mancano ormai geologi, esperti in metallurgia, abbiamo proprio rinunciato, siamo usciti da questo settore, e forse poi ci sono anche valutazioni ambientali da prendere un po' in considerazione. Ma quella che è una delle strade, non è la soluzione definitiva, ma sicuramente è importante, è proprio il riciclo. Quindi cambiare mentalità, capire che non esistono più rifiuti, ma che tutto quello di cui noi ci sbarazziamo è obbligatorio che torni a essere una risorsa, altrimenti non abbiamo il materiale con cui costruire i nuovi prodotti di cui poi abbiamo bisogno. Quindi la parola chiave è riciclo. E è un aspetto culturale che dobbiamo innestare. Faccio solo un esempio. Chi compra un cellulare non si rende conto che ci sono dentro fino a 50 materiali diversi. Lo compra, lo usa e poi lo butta via. Gli serve per le funzionalità del cellulare. In realtà lì dentro c'è una micro miniera di materiali, e allora capire che lì dentro c'è oro, c'è palladio, c'è indio. Tutte, chiaramente nel telefonino ce ne sono poche, ma se prendiamo migliaia e migliaia di telefonini, di computer, ecco, queste cose devono assolutamente essere recuperate, e per farlo dobbiamo portarle ai centri di raccolta, far sì che arrivino agli impianti. Anche che passino attraverso consorzi consapevoli, insomma, di quello che hanno in mano, e non disattenti, e non che lavorino al ribasso magari. Sì, in questo caso sui RAE ci siamo noi. Su altre tipologie di rifiuti ci sono altri sistemi, però sono dei sistemi che cercano proprio di fare questo mestiere, ma ognuno di noi deve capire che non è un aspetto, faccio la raccolta differenziata perché sono perché un bravo sono cittadino, buono, sì. Beh, c'è dietro un problema mondiale importante di scarsità di risorse, e quindi dobbiamo imparare a convivere, a ridurre magari un po' i consumi di certe cose, o magari scegliere prodotti che usano materiali riciclati, anche questo è importante, quindi ridurre un pochino la quantità di materia e riciclare il più possibile. C'è un altro tema che vorrei rapidamente affrontare con te. Abbiamo detto appunto i centri di raccolta, i consorzi, poi coloro che devono smembrare. Ci sono impianti capaci di lavorare poi questi materiali in Italia, o bisogna andare all'estero? In Italia ne abbiamo una settantina, c'è un buon settore del riciclo dei rifiuti elettronici, ormai maturo, un settore industriale, ancora un po' piccolino, ancora fatto da imprese medio-piccole. All'estero ci sono dei veri e propri colossi, perché questo, hai toccato un aspetto interessante, è un business, è un settore economico importante. Il riciclo non è solo un aspetto ambientale, ma sta diventando sempre di più una leva della green economy, una chiave per creare occupazione, per sviluppare il PIL di una nazione e per mettergli a disposizione le materie prime. Quindi è veramente un'industria importante. È un'industria importante, lo diciamo, hai scritto un libro su questo tema, La terza crisi, Edizioni Ambiente, come sconfiggere la crisi e difendere il futuro di imprese e famiglie. È questo che vuoi anche evidenziare in questo volume? Sì, questo è un po' il tema, dare delle indicazioni, delle piccole ricette, soprattutto a chi fa impresa, a chi lavora in un'azienda, perché credo che la chiave di volta sia proprio l'impresa e l'industria. Se riusciremo a cambiare il modo di fare impresa, andando verso la green economy, potremo sicuramente avere delle buone probabilità di uscire anche dalla crisi economica. E che poi è quello che predica molto spesso anche l'Unione Europea, la tanto vituperata, cioè attenzione a quello che abbiamo. Abbiamo già tante risorse, utilizziamole, non spargiamole, perché l'Europa appunto non ha la ricchezza magari dei sottosuoli di altri continenti, dell'Africa, però ha in questo momento, detiene nei suoi rifiuti una ricchezza e quindi va utilizzata. Ringrazio Danilo Bonato per essere stato con noi, ricordo appunto direttore generale del Consorzio Remedia e presidente del Centro di Coordinamento dei RAE. Continuiamo a parlare di recupero di risorse importanti, lo facciamo con il nostro Mr. Kilowatt, ovvero Maurizio Melis. Su ogni confezione di fertilizzante sono indicati tre numeri e una sigla, NPK, cioè azoto, fosforo e potassio. Sono i tre elementi minerali essenziali per lo sviluppo di ogni pianta, senza i quali la vita vegetale e anche animale non può esistere, e che in proporzioni variabili sono alla base di ogni fertilizzante, chimico o biologico che sia. Azoto e potassio sono abbondanti, il primo nell'aria, il secondo in molte rocce diffuse un po' dappertutto. Per il fosforo invece le cose non vanno molto bene. Si ritiene che all'attuale tasso di consumo le riserve mondiali di fosforo si esauriranno in circa 90 anni. Gli Stati Uniti, che sono il più grande produttore di fertilizzanti al mondo, esauriranno le riserve nazionali già entro 40 anni. Senza fosforo, che forma la spina dorsale del DNA e di molte delle molecole più importanti per la vita, l'agricoltura moderna, che bene o male ha permesso di sestuplicare la popolazione umana proprio grazie all'invenzione della concimazione, si fermerebbe immediatamente, con conseguenze drammatiche. Naturalmente il fosforo non sparirebbe improvvisamente e realisticamente lo si potrebbe estrarre da nuovi tipi di rocce, ma a costi che rischiano di essere estremamente più elevati. Inoltre sappiamo che l'economia non aspetta l'esaurimento di una risorsa per scatenare una corsa al rialzo dei prezzi, che in questo caso potrebbe essere anche aggravata dal fatto che le riserve più abbondanti di fosforo di facile estrazione sono concentrate in 3 o 4 paesi soltanto. È venuto il momento di fare qualcosa. Prima di tutto è necessario ridurre l'uso di fosforo applicando pratiche agricole più avanzate che ne disperdano anche meno nel terreno. E poi dobbiamo imparare a riciclare il fosforo, che è abbondante nell'urina e in tutti gli scarti animali, a partire dalle ossa, dove è molto concentrato. Esattamente la stessa cosa che si è cominciata a fare con le terre rare, indispensabili per l'industria elettronica. Ed ecco qui le terre rare, siamo tornati sull'argomento di cui parlavamo in precedenza. Adesso con Marco Carminati invece è il momento di articolo 9, come l'articolo della Costituzione italiana, che dice: la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati, benvenuti a tutti. Abbiamo in collegamento con noi Ilaria Borletti Buitoni, che è la presidente del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, lei ha appena mandato in libreria un libro che si intitola Per un'Italia possibile, la cultura salverà il nostro paese. È un libro edito da Mondadori, nel quale lei racconta tante cose, sostanzialmente tre filoni. Ecco, io vorrei che mettessimo un po' in evidenza i contenuti di questo libro. Intanto, se non sbaglio, lei ha una sorta di dichiarazione d'amore per l'Italia, suggerendoci alcuni itinerari in posti meravigliosi. Mi sono sbagliato o ho capito bene? No, lei ha ragione. Quello che ha spinto questo libro, oltre che parlare del FAI, è proprio così estendere anche ai lettori il mio amore per l'Italia, perché credo onestamente che l'Italia sia stata un paese emozionante nei miei viaggi, nella mia vita, nel mio passato. E quindi ho voluto ricordare qualcuna di queste emozioni. Però il libro naturalmente ha come sottofondo un messaggio anche doloroso, perché il nostro bel paese, questo luogo che lei descrive in alcuni angoli veramente ancora molto incantati, ha subito in questi ultimi anni una serie di avvilimenti, proprio di trascuratezze, di danni che sono molto evidenti. Ecco, perché noi abbiamo per esempio cementificato così tanto? Ma io attribuisco, e nel mio libro lo dico questo, al fatto che noi percepiamo poco il senso del bene collettivo. Certo. Il paesaggio è un bene collettivo. E poi certamente il sovrapporsi di leggi nazionali, locali, in materia di urbanistica, in materia di tutela, senza che vi fosse un coordinamento tra queste varie normative, ha permesso con delle maglie troppo larghe il passaggio di piani paesaggistici locali estremamente facilitanti la cementificazione. Quindi queste due componenti, una pratica e una direi psicologica nostra italica, hanno fatto sì che il paese sia completamente devastato dalla cementificazione, perlomeno molto di più di quello che è avvenuto in altri paesi europei. Certo, e lei nel sottotitolo di questo libro, con una formula, con una domanda, dice che la cultura salverà il nostro paese. Ecco, è una domanda forse retorica, perché io so che lei nel libro manda un messaggio di speranza e di fiducia. La cultura salverà il nostro paese? Io credo di sì, perché prima di tutto l'ambito culturale, se ben valorizzato, può portare sviluppo, soprattutto in quelle regioni che sono prive di vocazioni produttive diverse. E poi perché cultura significa anche consapevolezza di quello che si è, e in questo momento in cui il paese è così avvilito, ricordarci che abbiamo il più importante o tra i più importanti patrimoni storici e artistici del mondo, secondo me contribuisce a un orgoglio nazionale che permette anche di ripartire. Certo, poi alla fine del libro lei mette in evidenza il ruolo che possono avere per esempio le fondazioni private, quelle pubbliche, gli enti no profit. Voi come fai? Siete una fondazione privata. Ecco, che cosa può fare il FAI per mettere la cultura come punto di riferimento per una ripresa del paese? Cosa fate? Cosa potete fare? Cosa volete fare? Ma intanto proporci sempre di più a fianco dello Stato per il mantenimento di beni anche pubblici, come noi stiamo facendo per esempio a Cerrata, in quell'abbazia vicino a Lecce che ci viene affidata dalla provincia. Sì. Cioè il FAI può essere veramente vicino alle istituzioni pubbliche nell'opera di mantenimento dei beni, opera che lo Stato da solo non può più affrontare. E poi credo che sia solo una rete che può salvare il nostro patrimonio artistico e monumentale dal degrado in cui si trova, e questa rete deve vedere soggetti privati e pubblici vicino, naturalmente con regole trasparenti e chiare. Bene, Presidente, io so che oggi e domani si celebra anche la giornata di primavera del FAI, quindi speriamo che il vostro appello di visitare l'Italia, di andare a scoprire tanti angoli dell'Italia che voi mettete a disposizione con il vostro, la vostra potentissima rete di volontari, sia un messaggio che gli italiani colgono. Io la ringrazio moltissimo, Presidente. Grazie, grazie a lei. E auguro a tutti gli ascoltatori una buona giornata.